La peste scarlatta di Jack London, sesta puntata. Passai 3 settimane di tormento infinito al campo di autista e poi, un giorno, stanco di me o di quella che per lui era l'influenza dannosa che esercitavo su Vesta, autista mi disse che l'anno prima, vagando attraverso le Contra Costa Hills fino allo stretto di Carankinas, aveva visto del fumo innalzarsi al di là dello stretto medesimo. Ciò significava che c'erano altri sopravvissuti e che lui per 3 settimane mi aveva nascosto quell'informazione inestimabilmente preziosa. Partii subito con i miei cani e i cavalli e attraversai le Contra Costa Hills fino allo stretto. Non vidi alcun fumo sulla sponda opposta, ma per costa trovai una piccola bettolina d'acciaio sulle quali potei imbarcare i miei animali. Trovai anche un vecchio telone che mi servì da vela. Una brezza che spirava da meridione mi spinse attraverso lo stretto fino alle rovine di Vallejo. Là, alla periferia della città, scoprii i resti di un bivacco abbandonato di recente. Molte conchiglie mi rivelarono perché quegli umani si fossero recati alle spiagge della baia. Si trattava della tribù di Santa Rosa, delle quali seguì le tracce lungo la vecchia ferrovia, attraverso le paludi salate fino alla valle di Sonoma. Là, alla vecchia fabbrica di mattoni di Glen Ellen, trovai l'accampamento della tribù, che era composta di 18 anime in tutto. 2 erano uomini anziani: Jones, un banchiere, e Harrison, un usuraio in pensione che aveva preso in moglie la direttrice del manicomio statale di Napa, l'unica soprestite fra tutti gli abitanti di quella città, nonché di tutti gli altri villaggi e cittadini di quella valle fertile e popolosa. Poi c'erano altri 3 giovani, Cartiff e Hale, che erano stati agricoltori, e Wainwright, che era stato operaio a giornata. Tutti e 3 avevano trovato moglie. A Hale, un contadino rozzo e analfabeta, era andata Isadore, la più desiderabile, dopo Vesta, fra le donne sopravvissute al morbo. Era stata una delle cantanti più famose del mondo e si era trovata a San Francisco quando era scoppiata l'epidemia. Una volta conversò con me per ore, raccontandomi le avventure che aveva vissuto fino a quando, salvata da Hale nella riserva forestale di Mendocino, non le era rimasto altro da fare che diventare sua moglie. Ma Hale era un bravo uomo, benché non fosse colto. Aveva un senso spiccato della giustizia, della correttezza e della lealtà, quindi Isadore fu di gran lunga più felice con lui di quanto mai potesse essere lo Vesta con autista. Le mogli di Cardiff e Wainwright erano popolane, robuste e abituate al lavoro, e dunque adatte alla nuova esistenza selvaggia che erano costrette a condurre. Della comunità facevano parte anche 2 idioti provenienti dall'Istituto per Malattie Mentali di Eldenridge, e 5 o 6 fra ragazzi e bambini nati dopo la formazione della tribù di Santa Rosa. Inoltre c'era Berta. Era una brava donna, labbro leporino, e anche se tuo padre la scherniva, io la presi in moglie. Era la madre di tuo padre, Edwin, e anche della tua, oh, e fu nostra figlia, Vera, che sposò tuo padre, labbro leporino, tuo padre, Sandow, il primogenito di Vesta Van Varden e di Autista. E fu così che io divenni il 19° membro della tribù di Santa Rosa. Dopo di me entrarono a farne parte soltanto altri due estranei. Il primo fu Mungerson, discendente dei Magnati, che vagò solo nelle regioni selvagge della California settentrionale per 8 anni, prima di trasferirsi a sud e di unirsi a noi. Fu lui che attese 12 anni per poter sposare mia figlia, Mary. Il secondo fu Johnson, il fondatore della tribù dell'Utah. Era infatti da quello stato che proveniva, l'Utah, un paese che si trovava molto lontano da qui, oltre i grandi deserti e a oriente. Fu soltanto 27 anni dopo l'epidemia che Johnson arrivò in California. In tutto il territorio dell'Utah aveva incontrato soltanto due superstiti, entrambi uomini. Per molti anni, tutti e tre, avevano vissuto e cacciato insieme, fino a quando, disperati, temendo che con loro la razza umana si sarebbe estinta del tutto, si erano diretti a Occidente, nella speranza di trovare donne superstiti in California. Soltanto Johnson era riuscito ad attraversare il grande deserto. I suoi due compagni, invece, erano morti. Aveva 46 anni quando si unì a noi e sposò la quarta figlia di Isadore e di Ari. E il suo primogenito sposò tua zia, labbro leporino, che era la terza figlia di Vesta e di Autista. Johnson era un uomo robusto e indipendente, dotato di una forte volontà, e fu per questo che si divise dai Santa Rosa per formare la tribù dell'Utah, a San José. È una piccola tribù composta soltanto di 9 persone. Tuttavia, anche se lui è ormai morto, la sua influenza e il suo vigore sono stati tali che essa diventerà forte e avrà un ruolo importante nel riportare la civiltà sul pianeta. Esistono soltanto altre due tribù di cui siamo a conoscenza, i Los Angelito e i Carmelito. La seconda ha avuto origine da un uomo e da una donna. Lui, chiamato Lopez, discendeva dagli antichi messicani ed era molto scuro di pelle. Era stato mandriano nei pascoli oltre Carmel. Sua moglie invece era stata cameriera nel grande del Monte Hotel. Trascorsero 7 anni prima che incontrassimo i Los Angelito, che vivevano a sud di qui, in una regione molto bella ma troppo calda. Credo che attualmente la popolazione del mondo sia compresa fra i 350 e i 400 individui, sempre che naturalmente non esistano altre piccole tribù sparse altrove. Se è così, non ne abbiamo avuto nessuna notizia. Da quando Johnson attraversò il deserto proveniente dall'Utah, non abbiamo più ricevuto informazioni di nessun genere dell'Est, né da altre regioni del continente o dell'intero pianeta. Il mondo che ho conosciuto nella mia giovinezza non esiste più, è completamente scomparso. Io sono l'ultimo uomo che sia vissuto nei giorni del morbo e che conosca le meraviglie di quell'epoca ormai lontana. Noi, che dominiamo il pianeta, sulla terra, nel cielo e sul mare, e che ci innalziamo al rango degli dèi, ora viviamo un'esistenza selvaggia e primitiva lungo i corsi d'acqua di questa regione della California. Nondimeno, ci stiamo moltiplicando rapidamente. Tua sorella, labbro leporino, ha già 4 figli. Ci stiamo riproducendo velocemente e ci stiamo preparando a una nuova ascesa verso la civiltà. Con il tempo, l'aumento della popolazione ci obbligherà a spostarci. Possiamo prevedere che, fra 100 generazioni, i nostri discendenti cominceranno ad attraversare la Sierra, espandendosi lentamente, generazione dopo generazione, sul grande continente, fino a colonizzare l'Est, dando così inizio a una nuova migrazione ariana nel mondo. Ma sarà un processo lento, molto lento. Dobbiamo progredire ancora molto. Siamo caduti così disperatamente in basso. Se soltanto tra i sopravvissuti ci fosse stato un fisico, un chimico, ma non era destino, perciò abbiamo dimenticato tutto. Autista aveva cominciato a lavorare il ferro costruendo la fucina che usiamo ancora oggi, ma era pigro e quando morì portò con sé tutto ciò che sapeva sui metalli e sulle macchine. Che cosa potevo mai sapere io di cose simili? Ero uno studioso di letteratura, non uno scienziato, e gli altri superstiti non erano istruiti. Soltanto due cose riuscì a fare Autista: produrre gli alcolici e coltivare il tabacco. E fu proprio quando una volta s'ubriacò che uccise Vesta. Credo fermamente che l'abbia uccisa nel furore dell'ebbrezza, anche se ha sempre sostenuto che l'Ecate nel lago e annegò. E lasciate che vi metta in guardia, nipoti miei, a proposito degli uomini di medicina. Si fanno chiamare dottori, fingendo di appartenere a quella che un tempo era una professione nobile, ma in realtà sono soltanto uomini di medicina, stregoni malvagi, seguaci della superstizione delle tenebre, mentitori e imbroglioni. Ma siamo talmente degradati e regrediti che crediamo nella loro menzogna. Anch'essi diventeranno insieme a noi sempre più numerosi e si sforzeranno di dominarci, eppure sono ingannatori e ciarlatani. Pensate al giovane strabico che si finge dottore, vende amuleti che dovrebbero tenere lontane le malattie o propiziare la caccia, e baratta promesse di bel tempo con pelli e con buona carne, manda bastoni di morte e compie mille abominazioni. Ebbene, io vi dico che quando afferma di poter fare tutte queste cose, egli mente. Io, il professor Smith, il professor James Howard Smith, affermo che egli mente, gliel'ho detto in faccia anche. Perché dunque non mi ha mandato un bastone di morte? Perché sa che con me sarebbe tutto inutile. Ma tu, labbro leporino, sei sprofondato a tal punto nella più nera superstizione che se questa notte ti svegliassi trovando accanto a te un bastone di morte, sicuramente moriresti. E non moriresti a causa dei poteri del bastone, bensì perché sei un selvaggio e hai la mente ottenebrata del selvaggio. I dottori debbono essere annientati e tutto quel che è andato perduto deve essere riscoperto. Ecco perché io ripeto fervidamente a voi certe cose che dovete ricordare e che dovrete ripetere ai vostri figli dopo di voi. Dovrete ripetere loro che quando l'acqua viene scaldata sul fuoco, in essa c'è una cosa meravigliosa chiamata vapore, che è più forte di 10.000 uomini e che può fare tutto il lavoro al posto dell'uomo. Ci sono altre cose molto utili. Nel lampo del fulmine c'è un servo dell'uomo altrettanto forte, che un tempo era suo schiavo e che un giorno lo sarà di nuovo. Una cosa del tutto diversa è l'alfabeto. Consente di comprendere il significato di quei segni piccoli e sottili, mentre voi ragazzi conoscete soltanto la rozza scrittura per immagine. Nella grotta priva di umidità, situata al Telegraph Hill, dove mi vedete andare spesso quando la tribù sosta presso il mare, ho accumulato molti libri. In essi è contenuta una grande saggezza. Con essi, inoltre, ho lasciato una chiave per l'alfabeto, affinché chi comprende la scrittura per immagine possa capire anche la stampa. Un giorno gli uomini leggeranno di nuovo, e allora, se i libri nella mia caverna si saranno conservati, sapranno che un tempo ha vissuto il professor James Howard Smith, il quale salvò per loro la saggezza degli antichi. Esiste, inoltre, una piccola sostanza che un giorno l'umanità inevitabilmente riscoprirà. È chiamata polvere da sparo. Era questa sostanza che ci consentiva di uccidere da lontano a colpo sicuro. Certe sostanze che si trovano nel suolo, combinate nelle giuste proporzioni, compongono la polvere da sparo. Ho dimenticato quali sono e forse non l'ho mai saputo. Però vorrei averlo saputo. In tal caso, frabbicherei la polvere da sparo e allora sicuramente ammazzerei Strabico e libererei il paese dalla superstizione. Quando sarò cresciuto, interruppe Ho-Ho, darò a Strabico tutte le capre, tutta la carne e tutte le pelli che riuscirò a procurarmi. Così mi insegnerà a diventare dottore. E quando ci sarò riuscito, farò in modo che tutti stiano seduti ad ascoltarmi. Si inginocchieranno tutti nella polvere dinanzi a me. Potete scommetterci. Il vecchio annuì solennemente, mormorando. È strano sentire le vestigia e i resti della complessa lingua ariana sulle labbra di un piccolo selvaggio sporco vestito di pelli. Tutto il mondo è sottosopra, e lo è fin dall'epoca del morbo. Di sicuro non mi obbligherei a star seduto ad ascoltarti. Si vantò labbro leporino parlando al ragazzo che voleva diventare uomo di medicina. Se ti pagherò per mandare un bastone di morte e non funzionerà, ti spaccherò la testa, hai capito? Io farò in modo che il nonno ricordi cos'è quella roba, la polvere da sparo, intervenne dolcemente Edwin, e poi vi farò scoppiare tutti quanti. Tu, labbro leporino, combatterai per me e mi procurerai la carne, tu, manderai bastone di morte per me e farai paura a tutti. E se sorprenderò labbro leporino a cercare di spaccarti la testa, ho, lo sistemerò con la polvere da sparo. Il nonno non è mica stupido come pensate voi, e io lo ascolterò e un giorno sarò il capo di tutti quanti voi. Mestamente il vecchio scosse la testa. La polvere da sparo prima o poi arriverà, nulla può impedirlo. È sempre la solita vecchia storia. L'umanità si moltiplica e combatte. La polvere da sparo consentirà di uccidere milioni di persone, soltanto così, per mezzo del fuoco e del sangue, si svilupperà, in qualche epoca remota del futuro, una nuova civiltà. E con quale risultato? Proprio come è scomparsa l'antica civiltà, così scomparirà la nuova. Occorreranno 50.000 anni per edificarla, ma anch'essa scomparirà. Tutte le cose scompaiono, rimangono soltanto l'energia cosmica e la materia. In un moto incessante di azione e reazione per produrre le eterne figure, il prete, il soldato e il re. La bocca dei bambini esprime la saggezza di tutte le epoche. Alcuni combatteranno, alcuni governeranno, alcuni pregheranno, e tutti gli altri faticheranno e soffriranno terribilmente, mentre sui loro cadaveri sanguinanti si innalzerà ancora e poi ancora il prodigio incomparabile delle civiltà, in tutta la sua meravigliosa bellezza. Tanto varrebbe che distruggessi i libri che custodisco nella caverna, perché che si conservino o che siano distrutte, tutte le loro antiche verità saranno riscoperte e le loro antiche menzogne sopravviveranno e saranno tramandate. A che serve? In quel momento l'abbro leporino balzò in piedi, lanciando una rapida occhiata alle capre, al pascolo e al sole pomeridiano. «Ehi!» mormorò a Edwin. «Il vecchio strambo diventa sempre più ciarliero e sdoglioso ogni giorno che passa. Torniamo al campo!» Mentre gli altri due ragazzi, aiutati dai cani, radunavano le capre e le spingevano verso il sentiero che attraversava la foresta, Edwin rimase accanto al vecchio per accompagnarlo nella medesima direzione. Quando giunsero alla vecchia ferrovia, Edwin si fermò di scatto e guardò indietro. L'abro leporino, i cani e le capre passarono oltre, mentre Edwin osservava un branco di cavalli selvaggi che era sceso alla spiaggia. Erano almeno una ventina, fra puledri, cavalli di un anno e giumente, guidati da un bello stallone con gli occhi luminosi, selvaggi, e il collo inarcato a fiutare la brezza salmastra che spirava dall'oceano, gli zoccoli immersi nella spuma della risacca. «Che c'è?» chiese il vecchio. «Cavalli», rispose Edwin. «È la prima volta che ne vedo sulla spiaggia. Sarà che i coguari diventano sempre più numerosi e li spingono a valle». Al di sopra dell'orizzonte, solcato da grosse nubi, il sole basso dardeggiava un ventaglio di raggi rossastri. E non lontano dalla bianca distesa delle onde che si spegnevano sulla spiaggia, i leoni marini, ruggendo il loro antico canto primordiale, si issavano sui neri scogli, senza mai smettere di combattere e di amare. «Andiamo, nonno», esortò Edwin. E così il vecchio e il ragazzo, barbari e vestiti di pelli, si volsero per riprendere il cammino lungo la ferrovia, addentrandosi nella foresta al seguito delle capre.